Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nel mondo della scuola gli attori e i protagonisti sono molti, sono tanti, tra questi ci sono anche i genitori. Ancora ben trovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia e spesso nel nostro percorso annuale, quando parliamo di genitori, incontriamo l'AGE, l'Associazione Genitori, che da poco ha un nuovo presidente nazionale che viene proprio dal Veneto, è già stato nostro ospite nelle scorse stagioni. Ben ritrovato allora con questa nuova qualifica, nuovo incarico a Fabrizio Azzolini. Bentornato nei nostri studi. Grazie, vengo volentieri nei vostri studi perché ogni volta direi che c'è stata l'apertura a voler vedere i genitori protagonisti nella società civile e protagonisti soprattutto nella scuola. E ripartiamo allora proprio dal vostro congresso nazionale che si è svolto a fine settembre a Montesilvano in provincia di Pescara. Ci siamo, era il titolo. Genitori associati, capitale di relazioni, valore nell'educazione, risorsa per il paese, 14° congresso nazionale. E quindi è importante essere associati per far sentire la voce, insomma. Nella scuola, come ho detto, ci sono anche i genitori. Io dico che è importantissimo associarsi. È importantissimo perché innanzitutto ci si sente meno soli quando è ora di verificare. Direi se la scuola è con noi o è contro di noi. Io non ho detto con i nostri figli o contro i nostri figli, è con noi genitori, perché io credo che la scuola da sola non educa totalmente un ragazzo. La scuola insieme alla famiglia educa a 360 gradi. Se poi inseriamo questi due protagonisti nella società civile, direi che allora formiamo un ragazzo veramente, diciamo, capace di contrastare le sfide che i nostri tempi le pongono davanti. Lei è nuovo presidente nazionale, anche se da presidente regionale ha già avuto a che fare con il livello centrale. Per la vostra associazione ci faccia un panorama tra nord, sud, centro, isole. Ma direi, di presenza, insomma. Direi che la nostra associazione è presente su tutto il territorio italiano. Ci sono delle sfumature, però. Le sfumature sono che, per esempio, al nord la nostra associazione è per lo più inserita nelle scuole. Al centro già le associazioni nostre, perché noi siamo una federazione di associazioni, al centro le associazioni nascono per dei bisogni degli associati. Così pure, ma in maniera preponderante, al sud. Difatti, anche al congresso nostro, i nostri soci hanno dibattuto se l'AGE doveva essere solo e tutto scuola o se l'AGE ad un certo punto doveva essere scuola ma inserita nella società. Direi che questo aspetto è prevalso. Perché io l'ho detto anche nella mia relazione dopo la proclamazione, per me non esiste, e l'ho detto anche all'inizio di questa intervista, non esiste solamente l'educazione scolastica. Esiste invece l'educazione nella società, pertanto l'educazione nella famiglia. Allora troveremo un ragazzo educato, un ragazzo che sa, direi, dialogare con i propri simili, che sa accettare e combattere le sfide e sa soprattutto, direi, accettare il proprio prossimo. Cioè non un sistema compartimenti stagni, ma un sistema in cui ci sono anche dei valori condivisi, però certo, forse su questo si apre un altro capitolo di discussione, magari non tutti i valori sono condivisi. Direi che la nostra associazione è apartitica, aconfessionale, però non disdegna di dialogare con la Chiesa, con la quale ha un rapporto direi di correttezza istituzionale. Direi che la nostra associazione si è sempre distinta per avere un occhio di riguardo per la Chiesa. Certamente noi non abbiamo un cappellano, ciò che ci contraddistingue è accettare il prossimo, qualsiasi prossimo noi incontriamo. Non dobbiamo selezionare il prossimo. Difatti direi che ci troviamo bene ad ascoltare, ad imparare e a quasi quasi modificarci anche nelle nostre idee sentendo ciò che dice Papa Francesco. Noi non dobbiamo essere i selezionatori del nostro prossimo, dobbiamo accogliere il nostro prossimo sapendo che può avere delle distinzioni che a noi non piacciono, però dobbiamo far prevalere più l'accettazione che la rinuncia. È un po' una scuola di vita, come poi all'interno anche della scuola, i ragazzi non scelgono certo, i loro compagni certo, di classe. Certo. Con questa prima considerazione allora una pausa e poi torniamo insieme col presidente nazionale dell'AGE Fabrizio Azzolini. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Il cielo ti fa fa stare in riga, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà, quanto costa fare finta di essere una star. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme all'Associazione Genitori, con il nuovo presidente nazionale Fabrizio Azzolini, che è stato fino a poco tempo fa presidente regionale della stessa associazione. Congresso di fine settembre, torniamo sul dibattito che avete fatto appunto a Monte Silvano. I genitori che devono essere informati e formati, che fosse un gioco di parole, ma insomma dietro c'è forse già un programma. Sì, noi informiamo quotidianamente i nostri genitori, che vorremmo più attenti, vorremmo dei padri e delle madri attente ai loro figli, che però tante volte, direi anche, scusiamo se dobbiamo adoperare una parola direi di un gergo sereno, scusiamo perché sono presi da mille cose. Si parlava anche al congresso di quanti corsi, concorsi ci sono, che tutti guardano alla famiglia. Direi che però la famiglia tante volte è disorientata. Noi allora abbiamo, e questo l'hanno pensato i nostri fondatori, Ennio Rosini, che è uno dei nostri, il maggiore fondatore nostro, ha pensato che ci sia anche una scuola genitori per formare i nostri genitori. Una scuola genitori che noi diciamo una scuola genitore age, perché tante si spacciano per scuole genitori, dove dei formatori appositamente da noi preparati vanno nelle nostre associazioni locali e in un ciclo di sei incontri incontrano la famiglia. Lo dico proprio la famiglia, perché noi addirittura abbiamo istituito anche dei babysitteraggi in maniera tale che i ragazzini, i bambini, i giovani siano diciamo accuditi in una sala vicino dove i loro genitori invece lavorano, con i nostri formatori, proprio perché marito e moglie si direi svestano da tutta l'incrostazione che hanno e ad un certo punto ragionino per vedere di avere un rapporto migliore tra di loro e tra loro e i loro figli. Per incrostazione cosa intende? Incrostazione io intendo, direi, tutte le sovrastrutture di questi tempi. Direi il si dice, i tanti si dice, che poi uno somatizza e crede di vivere nel paese dei balocchi, credi di vivere se no all'inferno. Non c'è una mediazione. Ecco, noi vorremmo che i nostri genitori si svestissero di tutto ciò perché tante volte la disperazione porta la disperazione della perdita di lavoro, la disperazione della perdita di potere economico, porta a chiudersi, porta a non avere contatti con altri genitori, con altre famiglie. E se quella famiglia poi non ha contatti, si diceva con un amico, diceva la famiglia di una volta, che era più, chiamiamola fra virgolette, granitica, anche se c'erano degli scossoni, teneva. La famiglia di oggi, che per, direi, per proprio la definizione di oggi di famiglia, che dove ci si fa presto ad innamorare, si fa presto a convolare a nozze, si fa presto ad avere un figlio, si fa presto anche a lasciarsi. E pertanto in quel momento, quando uno, io vedo tante famiglie dove quando non va più bene una cosa si dice vado a casa mia, vado via. Ecco, andare via e lasciare il partner, e lasciare il partner e i figli, ecco, significa creare delle problematiche che delle volte diventano insanabili. Ecco, noi cerchiamo di dare una mano, di mettere una mano su una spalla specialmente a queste famiglie. Ecco, l'ho detto anche in congresso, noi dobbiamo essere attenti alle famiglie monoparentali, alle famiglie formate da una madre e un figlio. Non dobbiamo dire tu sei stata, hai peccato, tu non devi venire da noi. No, noi ti accogliamo e invitiamo anche le famiglie dei nostri associati con i loro figli, a loro volta, di non additare mai i loro figli se per caso hanno degli inconvenienti di questo genere, ma ad essere accoglienti. Ecco, e in questo senso il ruolo dell'associazione può essere significativo. Qui si tratta anche di creare relazioni dal basso, perché non basta magari un avviso in bacheca o messo anche sulle bacheche elettroniche, penso ai social network, per poi creare veramente questo incontro. Ma noi diciamo che le esigenze vengono dal basso. Io non credo a ricette dall'alto, non ci credo. Noi possiamo accompagnare il basso, non possiamo dire ma noi vi insegniamo a fare i genitori, noi non insegniamo a fare nulla. Assieme ragioniamo con le diverse esperienze per proprio far sì che quell'humus che c'è nell'uomo, e questo dobbiamo dire che l'uomo è una magnifica creatura, che quell'humus che c'è fin dall'inizio, ecco, si trasformi in sentimenti, si trasformi in valori, che soprattutto è il valore della vita, il non rifiuto della vita, il valore dell'autostima, perché quando noi vediamo ragazzi oggi, direi anche ragazzi con direi non ragazzi ma anche adulti che il sabato sera non hanno lo spregio della propria vita. Perché? Perché io mi devo divertire, io devo trascendere. Invece io credo che bisogna che assieme riacquistiamo il gusto della vita. Con questa considerazione un'altra pausa e poi insieme per l'ultima parte di questa puntata. Dal mondo della scuola. You just know what you Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola insieme a Fabrizio Azzolini, presidente nazionale dell'AGE, Associazione Genitori. Dunque una rete nazionale che lei ci ha presentato prima. Mettiamo anche uno spunto di voglia, un pungolo magari per costituire a livello comunale, a livello di comunità un'associazione. Qualche indicazione su questo? Per costituire un'associazione innanzitutto ci deve essere il trasporto verso il sociale, cioè non possiamo costituire delle associazioni se non siamo disposti a dare noi soci, a dare un po' del nostro tempo, a dare un po' del nostro impegno. Impegno che deve essere un impegno organizzato. Non posso accettare, non possiamo accettare ciò che diceva una volta un socio, diceva sai, se non sono riuscito si fa il volontariato come si può. Il volontariato oggi deve essere organizzato. È una forma di azienda sociale il volontariato, non è più come anni fa dove tutto era consentito. Oggi non è più consentito nulla. Oggi ci sono delle leggi istitutive che vanno attentamente verificate e osservate. Le associazioni si formano, non c'è bisogno né di notaio né di niente, ci si mette assieme, si può chiedere all'AGE lo statuto e trovarlo anche sul nostro sito www.age.it, sito che oltre allo statuto ci sono anche tante informazioni, sito che è aggiornato costantemente, sito che ci permette di arrivare al nostro associato immediatamente. L'AGE poi ha anche un bimensile che è AGE Stampa, è un giornale che arriva a tutti gli associati dove diciamo ci sono vari comparti. C'è il comparto che io prediligo poi oltre agli altri, che è la voce delle associazioni, cioè le associazioni nostre, che sono ben 220 in tutta Italia, possono mandare del materiale illustrativo, materiale diciamo che va riprodotto, e per dire cosa fanno, che cosa riescono, che cosa sono riusciti a fare nel loro programma annuale. E serve anche da buona pratica per le altre, perché c'è uno scambio, c'è un interscambio fra associazioni che io credo tenga sempre desta l'attenzione di tutte le associazioni. Violando un comandamento scolastico, qui vale copiare. Mentre a scuola non si può copiare, copiare le buone iniziative, le buone pratiche. Beh, le buone prassi, io dico, ecco, il verbo copiare qui ci sta. Ben ci venga. Sta tutto. A scuola direi che invece bisogna, bisogna cercare di, direi proprio di non farlo, perché, perché diventa, diventa, oltretutto, diceva un ragazzo molto attento, oltretutto è anche un reato. Pertanto, ecco, noi non vogliamo, non vogliamo che i nostri ragazzi copino le buone prassi e siano i nostri soci, i nostri ragazzi siano sempre di monito per gli altri, cioè quando vanno in giro devono sapere che se sono dell'age devono distinguersi, indistinguersi per la loro amorevolezza, per la loro accettazione, come ho detto prima, del proprio prossimo. Prossimi appuntamenti in calendario nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane ci sono tanti appuntamenti, perché tante associazioni mi hanno già prenotato per andare. Dico, ho visitato in anteprima la sede, per esempio, di Brescia, dell'AGE di Brescia, è bellissima. La diocesi ha dato degli spazi bellissimi all'AGE, perché sa che l'AGE lavora, e mi hanno invitato per il 30 di ottobre ad inaugurare la loro sede nuova, che è dentro all'ex seminario, che adesso è la sede di tutte le associazioni di Brescia. Bene, allora, augurandole buon lavoro per questo triennio, ringraziamo Fabrizio Azzolini, presidente nazionale dell'AGE, per la sua presenza e buon cammino. Grazie. Ringraziamo anche Giancarlo Cusin dell'AGE di Noale, che è qui a fianco, ma che per motivi di salute non è potuto intervenire questa volta. Ci daremo appuntamento ad un'altra occasione. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.